notte di giorno la musica mi gira intorno. Anche la logica al suo lato debole. Quello di essere illogica per tutti coloro che non la capiscono. Musicale, standardizzare. Vai col disco. può cercarmi, allora sono andata alla discoteca, sabato sera alla discoteca, domenica alla discoteca. Finisce così, questa favola breve se ne va, se ne va. Il disco fa click e vedrete fra un po' si fermerà. Si fermerà. 4